24 mattino. Secondi. Buona giornata, buon 3 gennaio da Anna Migliorati. Siamo ancora in versione festiva, dormiamo ancora un po' di più, almeno per questa settimana. Da dopo l'Epifania si tornerà agli orari normali per 24 mattino, ma siamo qui anche in questi giorni perché c'è molto anche in questi giorni da raccontare. Chissà quanti di voi stanno magari rientrando dalle ferie, stanno già lavorando, sono andati in autostrada dal primo gennaio ed eccola la tassa del primo dell'anno. Tutti gli anni ormai un meccanismo consolidato, l'aumento dei pedaggi. Se ne sta parlando molto in questi giorni, magari qualcuno di voi avrà già provato l'ebbrezza, di sicuro se ne sarà accorto chi è passato sulla tratta Padova-Venezia. Il pedaggio qui è passato da 70 centesimi a 3 euro più 400%, certo si dirà c'è il passante di Mestre. Le cose sono un po' cambiate, ma gli aumenti a scacchiera ci sono stati un po' per tutti, più 3,9% l'aumento medio, ovviamente con tutte le differenze del caso. Perché? Perché esiste un meccanismo per cui ogni gennaio si rivedono le tariffe autostradali, ci sono dei parametri per calcolarle ed ecco puntualmente aumentano. Perché è giusto, è un meccanismo consolidato, le cose devono ancora funzionare così, è un sistema che è nato dalla privatizzazione delle società concessionarie voluta dal governo di D'Alema tra il 99 e il 2000, 14 anni dopo, è questo ancora il sistema giusto? Noi salutiamo l'ospite di questa mattina, benvenuto con noi Maurizio Lupi, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e buon anno. E buon anno davvero. Ne abbiamo bisogno. Ministro, lei la prima cosa che ha detto è stata: attenzione, quest'anno poteva anche andare peggio, abbiamo contenuto il rischio. È sufficiente come motivazione ancora una volta per altri aumenti? No, non è assolutamente sufficiente, anche perché questo è il momento in cui, e lo sanno chi ci sta ascoltando, c'è una piccola flebile ripresa, di tutto c'è bisogno meno che di aumenti, avremmo bisogno appunto di ridare fiducia ai consumatori, di non aumentare le tariffe, anzi cercando di diminuirle per aumentare ovviamente la domanda, perché questo è il punto. Lo ha detto bene lei nell'introduzione, noi ci troviamo sul sistema delle concessioni autostradali di fronte ad un sistema concessorio che è regolamentato per contratto e per legge, non solo dal 1999, purtroppo quando 3 mesi fa abbiamo iniziato a discutere proprio perché è l'esperienza di tutti che alla fine il primo gennaio aumentano le tariffe con le concessionarie autostradali, ho potuto constatare che il sistema concessorio autostradale è regolato da 6 convenzioni, neanche da una, da 6 convenzioni, cioè lo dico con molta chiarezza, da 6 contratti previsti per legge e approvati poi ovviamente per contratti firmati dallo Stato con le concessionarie, che a seconda delle tratte regolamenta e prevede un sistema automatico di aumento o diminuzione delle tariffe a seconda di alcuni parametri che vengono. Allora, i parametri li ricordiamo, si tiene conto dell'inflazione, obiettivi di efficienza, traffico previsto, qualità del servizio. Allora, sull'inflazione è inutile discutere. Mi perdoni, sì. Investimenti fatti. E investimenti fatti, ha ragione. Dal 99 al 2007, perché in particolare nel 2007 sotto Di Pietro si fece una grande, 2 ministri tentarono di rivedere il sistema concessorio. Il ministro Di Pietro e il ministro Tremonti. Il ministro Tremonti una volta fece quello che all'inizio avevamo pensato di fare anche noi, cioè di dire in un sistema nel 2004, in un sistema come questo, oggi non c'è bisogno di un aumento, era anche lì una fase di recessione, non si aumentano le tariffe. Fece un decreto legge, non aumentò le tariffe, ci furono per 6 mesi il blocco delle tariffe, dopo 6 mesi non solo i tribunali, come la legge deve essere perché ci sono dei contratti, non solo vennero aumentate le tariffe ma lo Stato dovette rimborsare per 6 mesi anche i 6 mesi precedenti a tutte le concessionarie. Allora, cosa è accaduto in questi ultimi 5 anni, ed è il tema per cui quel sistema deve essere rivisto. Siccome le tariffe sono legate agli investimenti effettivamente fatti, all'inflazione, ma anche alla domanda, da 6 anni, come tutte le cose, la domanda sul traffico autostradale è assolutamente diminuita. Per cui c'è un sistema oggettivo che prevede alla fine che rispetto ad ogni tratto autostradale si debba dare o questa formula o un aumento o una diminuzione. Allora, questa è la legge e queste le convenzioni. Io dico che, e lo dico anche a chi ci ascolta, perché chi rientra per le vacanze, cose. Ma ministro, c'è anche chi si muove sui camion perché ci lavora, ci sono i pendolari, quindi... No, mi scusi, allora, la prima cosa che noi dobbiamo garantire è, da una parte, la certezza e il rispetto dei contratti e della legge, perché se uno Stato non garantisce i contratti e le leggi che fa, dopo, in questo momento noi stiamo chiedendo ai privati di investire, di portare le nostre risorse dall'estero in Italia per ridare fiato, eccetera, uno non rispetta le leggi che ha, non rispetta i contratti che fa, ovviamente non viene. Ma dall'altra c'è anche una clausola prevista che dice non è che si può continuare in questo meccanismo automatico. Allora, il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di ridurre anche l'imperio laddove avevamo i criteri per poterlo fare e la possibilità per poterlo fare, l'impatto dell'aumento, che comunque è un impatto importante, questo ne siamo, quindi non è che io sono contento, sono assolutamente cosciente che l'impatto che c'è stato è un impatto forte, però l'aumento medio era chiesto al 4,9%, applicando le regole noi l'abbiamo portato al 3,9%, che vuol dire non un risparmio, perché purtroppo chi prende oggi l'autostrada paga di più, ma un contenimento minore, del danno, diciamo così, una minore introito, quindi un contenimento del danno per 50 milioni di euro. Ovviamente, e immediatamente un confronto, perché solo così si può fare, su alcune grandi questioni. Per rivedere i parametri, però lo dobbiamo fare consensualmente e lo dobbiamo fare con provvedimenti ovviamente che siano sottoscritti anche dal sistema autostradale e dal sistema concessionario, che prevede una serie di cose. La prima, ma che anche senza la revisione dei parametri farò nei prossimi mesi, l'introduzione forte, che non è mai stato fatto, di un sistema di abbonamenti anche sul sistema autostradale, in vale particolare dire... riferito alle categorie che poi sono più deboli, penso ai pendolari e penso al sistema dell'autobus. Potremmo avere un tesserino come idea, un tesserino di abbonamento come sull'autobus per l'autostrada? Esattamente, riferito a tratte ovviamente legate a quelle tratte che sono da una parte più frequentate dai pendolari. Il sistema autostradale viene usato, come giusto che sia, per le persone per recarsi nel posto del lavoro. Allora, riferendosi a queste categorie, noi dobbiamo consensualmente, e lo faremo lavorando, ci stiamo già lavorando, ma arriveremo anche a una direttiva del Ministero su questo, incentivare al sistema di abbonamenti che faccia ridurre a questo punto per queste. E questa potrebbe essere una novità. Però io le chiedo, sì. 3,9% è la media, vi avevano chiesto di più e questo è un dato oggettivo. Sì. Poi andando a vedere, c'è l'8,28% la strada dei parchi in Abruzzo, sì, sì. 6,26%, allora anche i nostri, la Cisa il 6,26%, insomma sono tutti tratti che veramente meritavano più di questa media del 3,9% per gli investimenti che hanno fatto? Avete valutato o più di tanto non c'è modo di valutare? No, sarebbe una sconfitta da parte dello Stato, del governo e dei funzionari che per dire che non si può valutare. Anzi, abbiamo valutato e fino all'ultimo tratto per tratto abbiamo cercato di. Quindi queste strade meritavano di più? Rispetto alle richieste, facciamo un esempio, perché anch'io ho ricevuto ieri, ma giustamente come così, le proteste, penso, o le osservazioni anche normali. Ma quantomeno voler capire, per esempio, insomma. Nella tratta sull'autostrada dei parchi dell'Abruzzo, lì dice non è possibile aver aumentato dell'8,2% le tratte. La richiesta da parte del concessionario era il 10,5% su quel tratto. Motivato da cosa? Per esempio, lì la tariffa è legata agli investimenti. Su quel tratto si stanno facendo investimenti, gli investimenti non sono fatti dallo Stato ma sono fatti dal concessionario, e quindi è scattata la clausola che il recupero degli investimenti avviene attraverso la tariffa. Un altro modo era possibile farlo, ma qui c'è stata grande discussione e non abbiamo avuto tempo, che se si diminuiscono le tariffe o se si impedisce di aumentare le tariffe, bisogna allungare il sistema concessorio, nel senso che a quel punto tu dici: noi non siamo in grado, lo Stato e i cittadini, di sopportare un aumento, non mi aumenti le tariffe, recuperi gli investimenti che hai fatto se hai una concessione che dura X più 2, X più 3 anni. Questo è impossibile in questo momento farlo nei confronti dell'Europa, e quindi nei 2 mesi che avevamo a disposizione non abbiamo potuto ovviamente se non andare in questa direzione, certo, che non è la direzione migliore, anzi, ne siamo, io esco non soddisfatto e sconfitto da questa, ovviamente da questo ragionamento, però abbiamo limitato i danni e dobbiamo immediatamente andare a trovare soluzioni che possano, non fra 6 anni, perché poi il tempo per cambiare un regime concessorio ci vuole, ma immediatamente dare più sollievo e anche un indirizzo per la crescita. Poi, quindi, i tempi sono maturi per rivedere questo meccanismo? Io credo che ci sia disponibilità e coscienza da parte del sistema concessorio con cui autostradale, con cui stiamo discutendo e stiamo lavorando, per aiutarsi a rivedere un meccanismo che oggettivamente, a fronte di una forte diminuzione della domanda, ha dimostrato che va nella direzione opposta, perché è interesse anche dei concessionari far sì che la domanda aumenti, non diminuisca, no? E quindi, se vogliamo ritornare... C'è un problema però, che di concorrenza anche su quel poco ne hanno poca, perché poi alla fine, se si viaggia in macchina, quelle sono le tratte. Beh, vede, lei ha toccato un altro punto. È evidente che se ci sono solo quelle tratte e non si realizzano altre tratte che darebbero concorrenza e possibilità, ovviamente, di strade alternative, uno è costretto ad andare, mentre se finalmente iniziamo a realizzare con un sistema dove lo Stato non mette risorse, ma che è il project financing, come sta avvenendo, penso alla Brebemi, che è l'alternativa della Milano-Brescia, della A4, certo. Allora uno alla fine diciamo può scegliere, a poter scegliere opzioni diverse. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Però mi permetta di dire, sì, perché gliel'ho detto all'inizio, siccome non possiamo rimanere fermi assolutamente, noi adesso dobbiamo lavorare, spero in un mese massimo, ed era il tempo che avevamo chiesto, ma poi non era possibile, per poter dire lavoriamo ulteriormente sulla proposta di attutire, almeno per gli autotrasportatori e per le categorie, appunto, i pendolari o coloro che fanno tratte funzionali, brevi, più funzionali all'utilizzo dell'autostrada per il loro lavoro, col sistema per la prima volta degli abbonamenti, di attutire questi aumenti, perché se noi riuscissimo, appunto, sul sistema dell'abbonamento a diminuire le tariffe del 20%, noi abbiamo attutito l'impatto dell'aumento. E mi faccia dire che questa sarebbe veramente una notizia. Lavoriamo, coscienti che la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma dobbiamo mica stare fermi e quindi lavorare ogni giorno su queste cose. Allora, siccome so che ha un impegno proprio al Ministero, sì, perché state lavorando, le faccio ancora un paio di domande prima di salutarla. Innanzitutto, così, le chiedo, come curiosità, lei sarebbe andato al giuramento come sindaco di New York in metropolitana? Ma sì, lo fa, è una cosa normale, cioè, io dico, no, vale, insomma, per noi, cioè, Se uno prima di diventare sindaco, prima di fare il politico, il parlamentare, usava la metropolitana, usava altri mezzi, tolte le questioni ovviamente di sicurezza a cui ognuno di noi è purtroppo legato, è anche un bel segno, no? Va bene. A me, per esempio, nella mia città, a Milano, mi piace girare siccome abbiamo il problema del traffico, l'ho sempre girato in motorino, come fa chiunque. Domanda invece un po' più impegnativa. Le proposte di Renzi di ieri per quanto riguarda la legge elettorale, modello spagnolo, Mattarella un corretto, doppio turno come i sindaci, cosa le piace? Ma noi l'abbiamo detto con chiarezza, innanzitutto non abbiamo problemi di sfide da parte di nessuno, qui c'è la sfida che ci pongono i cittadini, o cambiamo le cose oppure ce ne andiamo a casa tutti, e quindi delle 3 proposte abbiamo detto che quella che ci sembra funzioni meglio, anche a cui i cittadini sono abituati perché funziona bene il sistema, è quello dei sindaci, che prevede la scelta che con chiarezza che chi deve stare, chi deve governare e chi deve stare all'opposizione, che prevede con chiarezza finalmente la possibilità di scelta, i consiglieri comunali vengono eletti dai cittadini con le loro preferenze, che assegna un premio di maggioranza che dovrà essere rivisto perché con l'osservazione della Corte Costituzionale per poter governare. È una cosa che mi sembra si possa proseguire, si può fare assolutamente e deve essere fatta in tempi certi, ma non perché bisogna avere tempi certi per andare alle elezioni, bisogna farla in tempi certi perché se non iniziamo a dare segnali sul fronte delle riforme, quindi la legge, e bisogna cambiare anche, perché è una riforma costituzionale, anche il sistema di funzionamento del Senato e della Camera, se no facciamo vediamo che ormai è obsoleto, e dall'altra invece cose molto concrete per riprendere, prendere al balzo questa piccola fiammella di ripresa in modo da poter andare alle elezioni nel marzo 2015 con un paese che vede la luce. Il segnale di ieri è importante, lo spread che è arrivato a 200 è un segnale, non ci può rendere contenti, però è un segnale importante perché vuol dire che forse una piccola strada di barlume di ripresa ce l'abbiamo, no? E ne parleremo, perché ne abbiamo parlato molto e anche queste sono soglie psicologiche, però sicuramente c'è anche quello. E che hanno effetti concreti, perché vuol dire che se vediamo com'è l'obiettivo di tutti, andare a ritornare finalmente sotto la soglia 200 di spread, cioè della differenza che... Ricordiamo che una volta a 200 dicevamo aiuto se saremo sopra, ci siamo andati abbondantemente. Se lei si ricorda, a giugno del 2011, ad aprile del 2011 era intorno ai 115, 120. E ci sembrava 200 chissà cosa, siamo arrivati a 500 e risparmiamo quest'anno. Passa. Se siamo stabili, per capirci, se stiamo stabili vuol dire che se non cambiano le cose andiamo sotto, risparmiamo 5-6 miliardi di euro di interessi che paghiamo sul debito. La priorità questi 5-6 miliardi, se dovessimo risparmiarli con lo spread a 200, la priorità? Beh, noi abbiamo detto che le due priorità sono diminuire le tasse che si pagano da parte delle imprese sul lavoro e aumentare i soldi in busta paga agli operai. Questo risparmio andrebbe alle tasse sul lavoro? Noi abbiamo vincolato il risparmio sulla diminuzione del debito pubblico, cioè sulla diminuzione della spesa pubblica, tutto per diminuire il costo del lavoro. Io li metterei lì e sulle famiglie, punto, non mi disperderei. Vedremo, speriamo che resti a 200 a questo punto. A questo punto speriamo che resti a 200. La vita del governo è solo legata ai risultati, il resto è legata ai risultati. La politica. Perché? I tempi di questo governo, visto che mi ha buttato lì il sasso. A me piacerebbe, come giustamente abbiamo fatto oggi, dobbiamo fare ogni giorno. I tempi del governo li sono segnati poi la politica ovviamente non ha nessuna certezza, però sono segnati dalla fiducia che abbiamo ricevuto, ed è marzo 2015, abbiamo 14 mesi e sono segnati dal fatto che se in questi 14 mesi attueremo, adesso faremo questo contratto di governo per il 2014, puntualmente le cose che faremo e ci saranno i risultati, vorrà dire che abbiamo fatto un piccolo servizio al nostro paese, altrimenti saremmo sconfitti tutti. Ultima domanda velocissima. Berlusconi si sta organizzando, ci sono i coordinatori regionali da ieri. A voi come sta andando? Sta andando il nuovo centrodestra da un mese. Stiamo cercando finalmente una sede, eccetera, ma da un mese. Ma l'avete trovata o no? L'avete trovata o non ancora? Speriamo, la prima settimana di. Adesso la prima settimana di gennaio la ripresa dovremmo averla trovata, anche perché giustamente dove dai, ce lo anticipi a questo punto delle nuove regole, non avremo risorse pubbliche e vivremo della nostra capacità, della nostra credibilità e delle risorse che chi crede nel nostro partito ci darà. Noi abbiamo una cosa impressionante, cioè ormai oltre 2700 amministratori locali hanno aderito al nuovo centrodestra, a dimostrazione che c'è dove la nuova sede? Che è moderata, che è di centrodestra, ma che vuole guardare al futuro e vuole dire che possiamo essere anche credibili senza urlare, senza strepitare, senza insultare le istituzioni, ma facendo e difendendo gli ideali e i valori che la nostra storia di questi anni ci ha portato ad essere alternativi alla sinistra. Senta, me lo dice dove è la nuova sede? no, non glielo dico. Va bene. Ci dobbiamo fare il contratto ancora. Va bene, se no magari qualcuno oggi, ve lo scippa. Stamattina siamo al ministero e oggi pomeriggio cerchiamo di... allora a questo punto me lo può anche dire, no? No, no. Va bene, va bene, grazie, l'abbiamo trattenuta anche più di quanto pensavamo. Grazie allora al ministro Maurizio Lupi, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, buona giornata, buon anno ancora. Sì, grazie. Allora, una piccola pausa, avete sentito, potrebbe arrivare questo abbonamento per pendolari e autotrasportatori sulle autostrade, chi lo sa, di sicuro i meccanismi sono da rivedere, una piccola pausa e poi ripartiamo ancora da qui. 24 mattino. Potremmo viaggiare in autostrada con un abbonamento, almeno per quanto riguarda pendolari e autotrasportatori. Chi lo sa, entro un mese, ci stiamo lavorando, ci ha detto poco fa il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Maurizio Lupi. Chissà se questa proposta potrebbe piacere tra il monte di polemiche per gli aumenti ancora una volta delle tariffe autostradali scattate puntuali il primo gennaio. Dario Balotta, presidente ONLIT, Osservatorio Nazionale sulle liberalizzazioni dei trasporti. Buongiorno. Lei, i vostri ascoltatori, e auguri a tutti. E buongiorno anche al collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino. Eccomi, buongiorno. Buongiorno Maurizio. Allora, Balotta ha sentito Lupi. Le chiedo subito, potrebbe essere un'idea questa degli abbonamenti? È una novità, non l'avevamo mai sentita. Sì, però se, come è venuto fuori chiaramente dall'intervento del ministro Lupi, abbiamo di fatto un governo che è ostaggio di 6 convenzioni fatte tutte in modo sbagliato e ostaggio quindi di meccanismi regolatori che in questa fase qua, anziché migliorare la situazione di crisi, la collassano ulteriormente con degli aumenti di questo tipo, insomma siamo ben presi, ecco. Non vedo una impostazione chiara e forte da parte del ministro, insomma. Mi sembra che ci sia un governo abbastanza debole che quando i 24 concessionari, l'AISCAT, si mettono lì, impongono le loro regole. Ne faccio l'esempio di una che mi è balzata proprio all'occhio. Quando tu dici che la concorrenza la fai creando un'autostrada parallela all'altra, sì, fai una sì. cosa che non sta né in cielo né in terra, insomma. Sì, l'abbiamo in Francia c'è un'autostrada e parallelamente chi non vuole pagare il pedaggio per andare a lavorare si prende la strada statale che non è congestionata come la nostra. Se la concorrenza nelle autostrade non è 50.000 autostrade come abbiamo noi 24 segmentini di autostrade, è una forte regolazione pubblica che riduce i tempi della concessione e tiene sotto scacco il concessionario, mentre invece qui è il committente che è il concedente che è sotto scacco, anche da convenzioni con dei piani infrastrutturali che proprio a maggior ragione della riduzione del traffico non hanno più senso, insomma, se mai fosse questo il vero motivo dell'aumento delle tariffe. Ma voglio ricordare agli ascoltatori che le tariffe aumentano indipendentemente dall'effettiva realizzazione degli diciamo così investimenti e per cui qui c'è qualcosa che non funziona, cioè c'è una capacità corporativa di fare delle autostrade, delle galline, delle uova d'oro che continuava prima ed era sbagliato e oggi è assolutamente inammissibile. Il ministro Lupi, Balotta, il ministro Lupi ha detto che ha la sensazione che siano maturi i tempi per rivedere queste modalità, è d'accordo? Io ho la sensazione che ci sia la necessità di rivedere queste modalità, ma siccome lui non ha prima era l'ANAS che direttamente regolava e faceva da soggetto di vigilanza e l'ha sempre fatto molto male, tant'è vero che dico un solo caso, la Serravalle che pure ha aumentato gli investimenti, le tariffe dal primo di gennaio mi pare del 5-6%, ha 711 milioni di spese in arretrato da convenzione, quindi non è vero che è lo Stato in mora, vorrei proprio vedere chi è in mora, insomma. E poi voglio anche ricordare che questi concessionari che fanno dei profitti enormi, poi ne parleremo di quei profitti fanno, pagano dei canoni concessori allo Stato che sono davvero ridicoli, insomma. E qua c'è un'altra piccola questione che emerge: se lo Stato non sa dove prendere una lira, nell'unico punto che sono i servizi, in particolar modo questi qua che hanno degli aspetti monopolistici, e qui si apre tutto, ad altri, tutto beh, un altro, fritti, insomma. Un'altra questione. Insomma, un'altra i debacle. Nostri ascoltatori ovviamente stanno mandando sempre i messaggi al nostro, il numero del nostro SMS, scrive un ascoltatore: pescare a Roma in treno 5 ore, l'unica alternativa è l'auto, è normale un aumento dell'8% e ce lo dobbiamo tenere. 800 24 00 24, vi ricordo tra l'altro il nostro numero verde, 349 238 6666. Andiamo proprio a vedere che succede sulle strade. Maurizio, ci sei? Dopo voglio sentire anche il tuo parere. Certo, certo. 24 mattino. Maurizio Caprino, che ne pensi di questa ipotesi abbonamenti? È fattibile? La fa già Autostrade per Italia su Autostrada dei Laghi da qualche anno, di sua iniziativa, quindi non vedo dove sia l'invenzione di Lupi, ecco. La fa. Certo, però se fosse estesa, diciamo, d'imperio, mettiamo così, un po' in maggior parte dei tratti, forse... Ah beh, sì, certo, però bisogna vedere che potere contrattuale intende avere il Ministero nei confronti di dei gestori in particolare, e di questo che è il gestore principale, che ovviamente, essendo principale, detta un po' lui le regole, e questo un po' su tutti gli aspetti anche della vigilanza. Secondo te sono stati motivati questi aumenti? Perché Lupi ci ha detto no, ma noi abbiamo verificato. No, il problema è che le convenzioni escludono la possibilità di fare delle verifiche reali, delle verifiche vere. A seguito dell'incidente che è costato la vita, ricordiamolo, a 40 persone, che è la più grande tragedia stradale italiana. Sulla Salerno-Reggio Calabria, ne abbiamo parlato a lungo. Sulla Napoli-Canossa, ne abbiamo parlato a lungo. Esatto, beh, allora lì io ho posto delle domande precise al Ministero, le ho anche reiterate, alla fine hanno dovuto rispondermi che il controllo vero non si può fare, perché loro non possono entrare nel merito del singolo investimento, e poi il conteggio delle spese fatte per questi investimenti è un conteggio nominale, ossia basta che il gestore appalti il lavoro a una sua controllata, la quale a sua volta subappalta a chi vuole, risparmiando il 30%. Beh, queste spese vengono contate per il 100% che esce dal gestore, non per il 70% che è il costo reale. Quindi noi paghiamo anche una tariffa che non voglio dire gonfiata, ma sicuramente non corrisponde al vero, cioè non è artatamente gonfiata, non abbiamo le prove che ci sia, come dire, un reato penale, però abbiamo sicuramente le prove che il sistema non funziona. Allora, un ascoltatore ci scrive, e questo è un po' il paradosso: quando le autostrade sono piene di interruzioni, perché si deve pagare il pedaggio pieno? Non solo si deve pagare il pedaggio pieno, ma se sono piene di interruzioni, il concessionario sta investendo e quindi si pagherà di più. Esattamente, è proprio quello che è successo per anni sulla Milano-Torino, e adesso si pone pari pari il problema sulla Venezia-Trieste, che è praticamente un sentiero di guerra, ma è una delle autostrade che hanno avuto il maggior aumento. Qui è un caso classico, appunto, di quello che dicevamo prima, ossia le convenzioni che sembrano scritte dallo stesso gestore e non dal governo. Ora Lupi non ci può far niente, perché le convenzioni si sta trovando a gestirle, però ricordiamoci che lui, proprio all'indomani di quell'incidente che avrebbe dovuto aprirgli gli occhi, ha detto davanti al Senato che questo sistema di convenzione gli sta bene, va migliorato solo nel fatto che bisogna accorpare i gestori più piccoli, ma per il resto lì va bene, e anche la vigilanza. Sei contratti ci ha detto, sei. Sì, esattamente, esattamente, e li stanno tutti bene, e onestamente anche la vigilanza, ecco, lui dice che anche la vigilanza funziona benissimo. Prendo atto che lui stamattina qualche dubbio se l'è fatto venire, ci sono voluti più di 6 mesi, ma adesso qualche dubbio però stamattina ce l'ha espresso. Ci ha anche detto che secondo lui sarebbero maturi i tempi per rivederlo. Secondo te è possibile? Ripeto, ecco, questa sarebbe un'ottima notizia, perché lui questo dubbio non ce l'aveva nel momento in cui avrebbe dovuto farselo venire. Prendo atto che ha cambiato idea, adesso però lo aspettiamo al varco. Balotta, chi dovrebbe sedersi a questo tavolo? E secondo lei ci sarebbero disponibilità di rivedere questi meccanismi che, ricordiamo, sono in qualche modo automatici? Sì, a gennaio sono, aumentano, non c'è sì, verso. Sono degli automatismi che nel passato, in presenza di una crescita del traffico consistente, per effetto che non c'era la crisi via discorrendo, ha prodotto delle fortissimi extra profitti, perché avevamo questo assurdo qua: la rete autostradale italiana è la più vecchia d'Europa e quindi di fatto è già ammortizzata. Tra i meccanismi che calcolano le tariffe c'è anche l'ammortamento della vecchia rete, che invece non ha più bisogno di essere ammortizzata. Gli addetti sono stati praticamente ridotti, tutti sanno che ai caselli non c'è più nessuno oramai. Gli addetti ausiliari all'autostrada, e quindi quelli che fanno interventi per la sicurezza, anche quelli ridotti, il caso più eclatante della Milano-Brescia, dove c'erano degli addetti per la sicurezza che giravano in motocicletta, anche questi sono spariti. Gli interventi con qualche tecnologia che sono stati realizzati, insomma, hanno alzato la redditività dell'autostrada. Lupi dovesse andare dall'altra parte e dire: sediamoci ad un tavolo, rivediamo i meccanismi. Come dice Maurizio Caprino, non avrebbe la forza o potrebbe averla in questo momento? Che lo Stato italiano non abbia la forza, insomma, ma dico, la forza è quella di fare non l'abbonamento, perché il carpooling, come diceva il suo collega, l'abbiamo proposto noi qualche anno fa, finalmente l'hanno messo, ma il carpooling non è la soluzione di questo problema qua. L'80% dei pendolari italiani vanno in macchina a lavorare, insomma, e gli altri 20% che va a lavorare è sussidiato di fatto dallo Stato, in treno e in bus. Questi qua non si capisce figli di chi sono, insomma, e perché devono oltretutto realizzare un extra profitto per una concessionaria che non restituisce niente. La concorrenza alle autostrade, questo... sono i treni merci, i treni pendolari, e entrambi, e lasciamo perdere cosa aggiunge il nostro ascoltatore da Bergamo, dico un altro nostro ascoltatore, 349-238-6666, sì. Ci scrive: la concorrenza alle autostrade in questo momento sono i treni merci, i treni pendolari, entrambi, diciamo, lasciano a desiderare. Ma non è neanche poi così vero, perché ci sono alcune tratte dove non sono esattamente parallele le due cose. Ma non solo, insomma, ci sono 16.000 chilometri di rete ferroviaria, mentre ci sono 200.000 di chilometri di rete stradale, non possiamo fare una cosa di questo tipo qua. Il punto vero è che l'80% dei pendolari italiani prende l'automobile. Noi ce ne siamo scordati, ci è piaciuto scordarcene e parlare solo dei pendolari ferroviari, ma i pendolari ferroviari pagano 30 euro di abbonamento, ma il costo di quell'abbonamento sarebbe 100, e 70 viene sussidiato dallo Stato. Idem con patate, quelli del bus. I pendolari che vanno in automobile, che non hanno speranza, non hanno alternativa, devono pagarci tutto, va bene, dal bollo all'automobile e via e all'assicurazione. Chi poi deve prendere l'autostrada, perché oggi la cosa che si è dimenticata di dire il ministro, e che ormai sanno tutti, anche i polli, è che le autostrade non sono più lo strumento per gestire il nostro viaggio da Milano a Roma, ma sono lo strumento per andare a lavorare nell'Interland milanese, nelle zone sempre più vicine, si riduce il traffico, si riduce le lunghezze, diciamo così, di spostamenti. Esatto, Maurizio Caprino, però è cambiata completamente la il modo di viaggiare del soggetto che utilizza. E l'altra cosa è quella, la vicenda dei camion, insomma, se io devo continuare a realizzare delle convenzioni con i soggetti autostradali per costruire nuove strade e poi scoprire che se apro un camion e lo guardo dentro è vuoto perché il 50% gira vuoto, io non posso essere uno Stato inefficiente che fa le strade per far girare dei camion vuoti. E infatti la logistica italiana è la più costosa e la meno efficiente d'Europa. Insomma, allora, il ministro deve darci una regolata, se vedremo. Vuole fare il ministro, se no fa come quello che hanno fatto tutti gli altri, subisce queste regole qua, viene fuori col culo. E vediamo davvero se questo tavolo potrà aprirsi. L'autostrada dei parchi, abbiamo detto, aumento parecchio forte anche quest'anno, in 12 anni ha raddoppiato i pedaggi, scrive un ascoltatore, sono pendolare senza speranza. Maurizio, ti faccio prendere la palla di vetro, l'anno prossimo a gennaio secondo te staremo ancora parlando di aumenti? Assolutamente sì, assolutamente è una storica. Sì. Tra l'altro voglio dire, Lupi ha anche meno forza, perché lui in questo momento è molto interessato, avendo tra l'altro il bacino elettorale nel milanese, è molto interessato a che finiscano in tempi ragionevoli le opere per l'Expo. Per l'Expo, e parliamo anche di strade anche lì. Dipende dai gestori, quindi certo. Ha una bella remora a intervenire in modo duro. Vedremo se davvero questa forza ci sarà, se davvero arriveranno queste novità. Grazie allora a Dario Balotta, Presidente Osservatorio Nazionale sulle liberalizzazioni dei trasporti. Buona giornata. Buona giornata a voi e auguri a tutti. Grazie anche Maurizio Caprino, Sole 24 Ore. Ciao il nostro osservatore in qualche modo sulle autostrade. Torneremo a parlarne a Radio 24, perché molto su questo c'è da dire. Le 8:55. Prima di chiudere questa prima parte di 24 Mattino formato speciale vacanze, parleremo poi ancora di altri temi dopo le 9, già vi anticipo che ci collegheremo col Mar Mediterraneo, non vi dico per il momento nulla di più, vogliamo fare però anche un saluto, oggi c'è un compleanno in qualche modo di una sorella minore, di una sorella maggiore, non lo so, giudicate voi, forse una sorella minore, è nata sicuramente dopo la radio, oggi compie 60 anni la TV. Franco, secondo te qual è stata l'importanza di questa nascita che poi insomma ha segnato questi 60 anni di storia d'Italia e degli italiani? All'inizio è stata sottostimata, perché quando è nata il 3 gennaio del 54 c'era la radio che dominava, si vendevano solo radio, quindi le televisioni era qualcosa assolutamente marginale, e poi pian piano ha preso piede clamorosamente ed è diventata un punto di riferimento assoluto, con numeri che sono in crescita ancora oggi, nonostante ci sia questa frammentazione degli ascolti, no? Tra mille rivoli, canali satellitari, digitale terrestre, in chiaro, insomma, tante cose. La televisione italiana ha fatto centro. La rubrica Lascia o raddoppia continua a suscitare l'entusiasmo e l'interesse non solo dei telespettatori, ma del pubblico italiano in genere. Un sabato questo particolarmente importante per l'indovinatissimo spettacolo. Il dottor Giulio Preziosi dovrà decidere se balzare o meno verso il traguardo dei 2,5 milioni. Mike Buongiorno è per ora alle prese con le reclute del concorso a premi. Ma ecco il clou della serata, il commerciante torinese profondissimo cultore delle patrie storie. Dottore, sono in paglia 2,560,000 lire. Io so che lei è molto appassionato di storie, ma adesso voglio sapere se lei lascia o raddoppia. Cosa facciamo? Franco, cosa possiamo dire di Mike Buongiorno? Di tutto. Lui è stato veramente il simbolo più grande. Beh, lui con le sue gaffe, con questo suo modo serio, e non capivi mai se ci fosse realmente o quanto giocasse, Mike è stato la televisione in modo assoluto. Ma secondo te una televisione come quella di oggi può ancora generare dei campioni come Mike o come Tortora, come Corrado, come Baudo, con la frammentazione di oggi non è più possibile? È molto difficile anche perché le reti generaliste non hanno più gli ascolti di un tempo, se non su eventi di particolare portata come Sanremo. Adesso è tutto frammentato, ognuno si fa il proprio palinsesto, è un fenomeno di costume che però è entrato sotto pelle e non si riescono più a creare i miti di una volta. Ma c'è un altro programma che ha fatto l'Italia e fatto gli italiani. Non è nato subito nel 1954, dobbiamo aspettare 3 anni, in realtà 3 anni di dibattiti per decidere come fare la pubblicità in Italia. Ecco, ma questo è vero, non è un fake questo. Questo è vero, noi siamo... Quindi oltre ad aprire le finestre, aprirci al mondo, aprirci all'anima del commercio. E aprire dei siparietti, 3 febbraio 1957, una musica che conosciamo tutti. Ringraziamo anche la nostra Marta Cagnola con Franco Bagnasco, Sorrisi e Canzoni TV, 60 anni della TV italiana, lo speciale di Marta Cagnola. Potete ritrovarlo oggi anche sul nostro sito www.radio24.it. 24 Mattino. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati, versione delle feste di questo 24 Mattino, e allora proseguiamo fino alle 9:30. La Marina Militare nel corso dell'operazione Mare Nostrum ha soccorso ieri 127 migranti a bordo di una nave che si stava dirigendo verso Lampedusa, la nave anfibia San Marco. Il pattugliatore sirio della Marina Militare hanno soccorso altre due imbarcazioni. Insomma, è inverno, fa freddo, ma dopo quel tragico naufragio, ed era il 3 ottobre scorso, al largo di Lampedusa, gli immigrati profughi che arrivano sulle nostre coste sono ancora tantissimi. E allora, sta funzionando questo sistema? Dobbiamo rivedere il sistema di accoglienza, come ha detto ieri il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge? Io saluto questa mattina Khalid Chaouki, deputato PD, ricorderete, è rimasto per alcune notti a Lampedusa. No, non è ancora collegato con noi, ma lo sarà tra pochissimo. E attenzione, attenzione, andremo anche nel Mediterraneo per vedere, di capire cosa sta veramente accadendo a bordo proprio di una delle navi che ci sono nel Mediterraneo, la Zefiro, con il nostro Gerardo Pelosi. Vediamo allora questa mattina se ci assistono i telefoni. Intanto io vi ricordo ancora una volta il nostro numero, il nostro SMS 349-238-6666, perché come sempre anche voi potete partecipare alla discussione. Allora, i nostri ospiti, vediamo se sono, ci hanno raggiunti al telefono. Non ancora. Allora, intanto vi racconto ancora qualcosa io, perché il ministro dell'integrazione Cécile Kyenge è stata molto decisa ieri. Stiamo studiando un modello alternativo di accoglienza. Sarà discusso a un tavolo insieme agli altri ministeri, agli enti locali e agli altri livelli, perché occorre individuare un sistema alternativo di accoglienza, una revisione del sistema di accoglienza. Questo dopo le bacchettate che ci sono arrivate dall'Unione Europea per quel che è accaduto, per il famoso video, ricorderete, al centro di accoglienza di Lampedusa. Tant'è che proprio oggi la commissione d'indagine voluta da Lega Coop Sicilia andrà a Lampedusa per confrontarsi con gli operatori della struttura e vedere se tutto può ripartire o meno. Ma, come dicevamo, anche questa notte ci sono stati arrivi, ci sono stati sbarchi, ci sono stati soccorsi al largo del Mediterraneo. Si può fermare questa ondata? Sta funzionando il nuovo sistema di controllo? Bisogna intervenire in un altro modo? Va modificata? 349-238-6666. Vi ricordo ancora, anche per dire la vostra, come spesso accade a 24 mattino. Come potrete immaginare, le linee col centro del Mediterraneo non sono comodissime. Fino a qualche istante fa era con noi il nostro Gerardo Pelosi. Vediamo se riusciamo a metterlo in collegamento con noi, così come vediamo se riusciamo a raggiungere anche Khalid Chaouki, deputato del PD. Ricorderete, si è rimasto per delle notti nel centro di accoglienza di Lampedusa, chiedendo fortemente un intervento che effettivamente poi c'è stato, ma ad ora non basta. Allora, brutte notizie mi dicono dalla regia. Allora, nel frattempo vediamo se riusciamo a collegarci con qualcuno. Allora, sentiamo un po'. Allora, Khalid Chaouki, deputato PD responsabile immigrazione, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo in attesa di collegarci con la Zefiro, ma nel frattempo io raccontavo prima delle parole ieri del ministro Kyenge, che ha iniziato l'anno dicendo: a questo punto dobbiamo rivedere questo sistema di accoglienza. In qualche modo per lei immagino una buona notizia. Beh, è quello che, per cui abbiamo lavorato, è quello che ci aspettiamo. E penso che sia davanti agli occhi di tutti, insomma, che così come sono le cose, noi non facciamo né una cosa giusta per l'Italia, venendo ogni volta attaccati dall'Europa perché noi rispettiamo i diritti umani, i diritti dei profughi, nemmeno una cosa giusta per il nostro paese, nel senso che non abbiamo una legge che funziona, per cui anche il quadro di legalità è sempre pieno di leggi confuse, contraddittorie, e questo crea confusione sia per chi arriva in Italia, ma soprattutto anche per chi vive qui e non riesce a capire molte volte il perché avvengono magari alcune cose, perché appunto siamo sempre nella, diciamo, anche in un dibattito confuso dove sembra che gli immigrati arrivano qui per caso e sembra che noi, insomma, non ne abbiamo mai avuto bisogno. Quindi una nuova legge serve anche fare chiarezza sia dal punto di vista della legalità ma anche quello del rispetto dei diritti umani. La sorprende che questi arrivi non si fermino? Tra l'altro diciamo che in qualche modo si è rallentato l'emergenza siriana, ma ad esempio gli arrivi di questa notte sono soprattutto dall'Africa, perché ha ripreso lì. Insomma, c'è sempre un fronte caldo in qualche modo. Ma purtroppo sì, noi dobbiamo renderci conto che l'Italia è davvero... è la porta dell'Europa, non è solo, diciamo, una metafora, ma è la verità, nel senso che è un paese che appunto è molto più vicino, più di quello che si immagini rispetto alla sponda sud del Mediterraneo. È un paese, se vogliamo, che anche ha una tradizione di accoglienza, e quindi molte volte anche gli immigrati insomma, preferiscono passare per l'Italia che per altri paesi, e questo anche per colpa di altri paesi come la Grecia o la Spagna stessa, che sono molto invece più severi, anche disumani a tratti, questo va detto. La Grecia quindi, sicuramente, nel senso che ha avuto anche più richiami di quelli che abbiamo avuto noi, ma anche lo stesso Belgio ad esempio, perché si parla di Bruxelles, ma poi ad esempio in Belgio ci sono dei centri di accoglienza che sono esattamente come i nostri nel mirino. Sì, diciamo che quello che, se vogliamo, ci ha salvato in questi anni è il cuore italiano, insomma, sono quei pescatori. Il coraggio di Lampedusa, anni, come l'ha definito, sì, Napolitano. Per tanti anni hanno fatto da supplenti anche a forze dell'ordine, anche a una politica che molte volte purtroppo ci ha messo molta ideologia e poca politica, appunto. E quindi mi sorprende il fatto che d'inverno ovviamente diminuiscono questi flussi per le condizioni climatiche, ma il fatto che arrivino lo stesso anche adesso, con condizioni anche difficili meteorologiche, significa che davvero siamo in un'emergenza, soprattutto quella del cono d'Africa, che purtroppo non si ferma. Eh sì, perché sorprende anche questa cosa, che non siamo esattamente nelle condizioni migliori, eppure si va avanti. Sì, e questo è un dato preoccupante, perché vuol dire che davvero c'è una pressione tale di flussi, di gente che sta scappando, di persone in fuga, che sono tanti. Noi abbiamo varie volte detto che oggi in Libia ci sono davvero diverse migliaia di persone che sono lì in attesa del biglietto buono, insomma, di giocarsi la lotteria, rischiando anche la propria vita verso l'Europa. E quindi la soluzione non è quella, insomma, di... Senta, secondo lei l'operazione Mare Nostrum sta dando dei risultati? Perché questi quasi 800 immigrati alla fine sarebbero arrivati sulle coste di Lampedusa? Sì, no, devo dire, è una delle cose che vanno riconosciute, ottime, che sono state fatte. Sono già state appunto salvate nell'ordine di almeno, penso, 2000 persone che appunto sono state recuperate in mare, dove poi sopra le navi viene fatta l'identificazione, viene dato il primo soccorso. Quindi questo sicuramente è un'operazione molto utile. È chiaro che non è la soluzione, perché ma la soluzione sarebbe quella intanto di lavorare per la stabilità di paesi come la Libia e l'Egitto, che devono anche loro assumersi responsabilità, insomma, diventare anche più accoglienti e non avere campi di concentramento come già abbiamo visto, e poi lì già decidere a livello europeo se siamo in grado o no di offrire accoglienza e rifugio almeno temporaneo per le persone che arrivano dai posti dove adesso c'è un'emergenza come la Siria in particolare, e appunto... Ma sì, ma poi dicevamo, un'emergenza c'è sempre, cioè alla fine qualche disperato che arriva anche con queste condizioni di mare ovviamente c'è. Il video di Lampedusa ha aperto però anche un'altra immagine, e appunto poi che se ne fa di chi arriva. Ci sono questi controlli in corso, oggi ci sarà anche questa commissione d'indagine. Che succederà su questo fronte, secondo lei? Ma io sono stato conosciuto direttamente anche con gli operatori, che ovviamente si sono scusati in tutte le lingue, dicendo che loro hanno fatto quello che potevano fare in quelle condizioni. Quindi emergeranno dei responsabili, ma la cosa che non deve succedere è appunto lo scaricabarile, cioè il fatto che non si può pensare che appunto una cosa così grave possa essere solo responsabilità di quell'ultimo operatore che, trovandosi lì magari appunto senza mezzi e senza formazione necessaria, perché ci sono tanti bravi volontari, ma purtroppo in molti casi io ho notato che c'è anche poca professionalità, perché al ribasso si cerca in qualche modo di trovare anche le persone più, no, più disponibili. Allora, andiamo sulla nave Zeffiro. Gerardo Pelosi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, so che avete avuto dei problemi di collegamento. Spiegaci dove sei, così capiamo subito. Sono a bordo della nave Zeffiro, che è ripartita dal porto di Augusta da circa un paio di ore e sta facendo rotta verso sud, e poi si ricongiungerà con le altre unità del dispositivo di Mare Nostrum. E praticamente, ecco, qui con me c'è il comandante della nave e il capitano di fregata Marco Antoniazzi, che ha coordinato ieri le operazioni di trasbordo da nave San Marco, da qui allegata Zefiro, dei primi 233 migranti che sono stati soccorsi l'altro ieri sera nelle acque internazionali a 80 miglia a sud di Lampedusa. Ieri sera le operazioni di discesa da questa nave dei migranti si sono protratte fino a circa le 2 di notte. Migranti, dicevamo prima, Gerardo, che sarebbero approdati e chissà come sulle coste di Lampedusa. Lo stesso Khalid Chaouki prima ci diceva, tutto sommato forse sta funzionando questo sistema. Il dispositivo sicuramente sta funzionando adesso, però vorrei che sentire proprio il comandante su questo. E questa è la prima volta che la nave Zefiro viene impiegata in questa attività di SAR, che sarebbe il search and rescue, cioè il salvataggio di persone in difficoltà. Ecco, comandante, come sono andate le operazioni dal suo punto di vista? Il equipaggio ha risposto bene a tutte le indicazioni e i protocolli? Sì, grazie dottore. Come diceva lei, effettivamente è impiegata per la prima volta in questa missione, ha preso il mare dal porto di Taranto lo scorso 27 novembre e... Allora, parlare col centro del Mediterraneo, come immaginerete, non è facilissimo. Gerardo, ci sei ancora? Allora, riproviamo subito la linea. Io saluto intanto anche un ascoltatore, Stefano, dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi, e buon anno. Dunque, il discorso, secondo me, in questa situazione non terminerà mai, nel caso aumenterà, perché dal momento in cui si è cominciato a parlare di ius soli da concedere a questi migranti, è ovvio che noi appariamo la terra del sogno, come l'America appariva la terra del sogno per noi italiani quando avevamo grossi problemi in patria. Quindi secondo lei questo problema non si risolverà mai? E allora? Non si risolverà mai fino a quando non si creerà una serie di restrizioni delle griglie, e fino a quando, soprattutto come diceva il deputato del PD, non si andrà in Africa a risolvere i problemi, perché lì stiamo parlando di centinaia di milioni di persone. Cioè, che facciamo? Li prendiamo in carico noi, cioè ognuno di noi prenderà dentro casa, ma con tutto l'affetto, per carità, ma noi anche abbiamo dei problemi colossali, insomma. E quindi dove dobbiamo andare, paese per paese, a risolvere i problemi? Secondo me, se si vuole fare un'azione umanitaria vera, quello che bisogna fare è portare la possibilità di vivere in quelle zone e di intervenire come per esempio la NATO, l'ONU interviene in settori strategici del mondo. Bisogna intervenire anche in Africa, cosa che non si fa, perché ci sono delle tragedie nelle quali non interviene nessuno, e lo sappiamo benissimo, perché non fa comodo Allora, la proposta di Stefano da Roma, ciao, chi che ne pensa? Beh, in qualche modo già si è provato a farlo, ma è chiaro che gli investimenti sono ridicoli. Cioè, il fatto di lavorare sulla cooperazione, no? E come viene chiamata, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione internazionale, e decidere di destinare una quota anche del nostro impegno fuori dai nostri confini, deve sempre essere più una questione, diciamo, non solo internazionale ma nazionale, perché è chiaro che... E nelle regole, nel rispetto ovviamente degli altri, della sovranità degli altri sì, paesi, assolutamente certo. Assolutamente sì, però il favorire per esempio anche qui il supporto delle medie, diciamo, della nascita di piccoli, del microcredito, e piuttosto che appunto in Libia adesso fare, proporre anche una conferenza di pace e non pensare che tanto una questione lontana da noi, o la Siria che abbiamo per 2 anni e più abbandonato. Per più le consideriamo paesi lontani, più diventa in realtà un problema per noi. Gerardo Pelosi, siamo riusciti a recuperarlo. Eccoti. Eccoci qua. Stiamo parlando col comandante, quindi la nave è ripartita da poco. Ecco, l'unica novità è che oltre ai primi 233 migranti, in realtà ci sono stati una serie infinita di avvistamenti e diciamo che il numero dei migranti soccorsi in queste ore dovrebbe superare il numero di 1000. Ecco, chiediamo al comandante, è così affollato questo Mediterraneo? È così affollato questo Mediterraneo, comandante, nei primi giorni dell'anno? Sì, nei primi giorni dell'anno effettivamente questo, il nostro Mediterraneo appare affollato. Noi abbiamo effettuato questo trasbordo di 233 migranti, dei quali 7 erano donne, e mentre noi effettuavamo questa operazione di trasbordo, le altre navi della Marina Militare impegnate nel dispositivo Mare Nostrum effettuavano delle operazioni di soccorso che si stanno concludendo e si sono concluse tra la giornata di ieri e la giornata di oggi. Comandante, come sono le condizioni del mare, voi che siete lì? Guarda, le condizioni del mare sono buone, e questo è uno dei motivi che ha indotto questa serie di partenze, perché veniamo da alcuni giorni di meteo molto brutto, con anche vento forza 10, onde molto importanti, eccetera, e invece adesso la situazione è ottima. Questo è un mare, credo, neanche forza 1, neanche forza 2, quindi è esattamente una cosa. Poi il meteo è molto riportato molto buono anche su tutta la rotta. Le persone che sono state soccorse stanotte sapevano che nel Mediterraneo è cominciata questa operazione, che quindi sarebbero state soccorse più facilmente? Ecco, questo è uno dei quesiti che ovviamente, e poi io adesso sarò sulla nave San Marco quando arriveremo nell'area delle operazioni, che chiederò al comandante di Mare Nostrum, l'ammiraglio Sollitto. Sicuramente gli scafisti e chi organizza questi viaggi si rende conto che questa zona è pattugliata e quindi spesso dà meno carburante e insomma rischia di più, questo sicuramente c'è questa considerazione da fare. Non crede, comandante? Beh, sì, assolutamente, c'è da tenere conto che l'area d'operazione è molto vasta, anche questo, e le forze impiegate sono continuamente alla ricerca per scoprire e localizzare questi natanti che vengono soccorsi proprio per le loro caratteristiche di spesso sovraffollamento, limitata galleggiabilità e personale che non dispone di dotazioni di sicurezza anche le più basilari, basti pensare ai salvagenti individuali, questo ne è un esempio. Eccoci, non so se avete altre domande. Allora, io vorrei, ecco, giusto solo che tu ci raccontassi, c'è la Zefiro in campo, ci sono anche altre unità della Marina e questa è la famosa missione, Gerardo, che l'Europa ha messo in campo dopo la vicenda di Lampedusa per arginare questi arrivi, no? Dunque, l'evento drammatico, tragico, che si è svolto il 3 ottobre con la morte di oltre 300 persone su una nave che al largo di Lampedusa si stava dirigendo sulle coste italiane, e ha prodotto in realtà un sussulto anche di attenzione da parte dell'Italia e da parte dell'Europa. Il Presidente del Consiglio Prodi arrivò per i funerali insieme al Presidente della Commissione Barroso, mai più cose del genere si era detto. Poi nei consigli europei successivi, quello di fine ottobre e anche quello di dicembre, si decise questo intervento. Ecco, ci siamo in campo noi, ci siamo in campo altri paesi, la Marina Militare, la la Zefiro, dove tu sei a bordo, sì, in questo istante, sì, è una di queste navi che sta controllando, sì, meglio il Mediterraneo. Sì, attualmente però teniamo presente che Mare Nostrum è un'iniziativa italiana alle quali finora hanno deciso di aderire soltanto Finlandia e Slovenia, e solo la Slovenia ha messo a disposizione del dispositivo navale, quindi Mare Nostrum, un pattugliatore. Consideriamo che la Slovenia ha una flotta di 2 piccole unità e una delle 2 l'ha messa a disposizione. Qui questo si deve anche agli ottimi rapporti personali che il Premier Letta ha. E gli altri, Gerardo, verrebbe da dire? E gli altri? È interessante che soltanto un paese nuovo, di nuovo ingresso dell'Unione Europea, di nuovo ingresso in Schengen, e non certo un paese del Mediterraneo come la Slovenia, si pone il problema del controllo e del rafforzamento delle frontiere sud di Schengen, e quindi frontiere europee di tutti i 28, mentre paesi mediterranei come la Grecia, Malta, non hanno ancora aderito a questo dispositivo. Grazie Gerardo Pelosi, grazie al comandante della Zefiro in collegamento con noi, dal cuore del Mediterraneo. Buona navigazione. Khalid Chaouki, verrebbe da dire, 3 mesi dopo Lampedusa ce ne siamo dimenticati. Noi no, ma che succede? Ma gli altri purtroppo ancora sì. Purtroppo abbiamo un problema con i paesi nord europei, non solo, perché loro hanno ovviamente anche dinamiche interne di integrazione eccetera, che fanno sì, e la crescita anche di partiti populisti di estrema destra, che fanno sì che insomma il tema dell'immigrazione per loro, che magari in anni passati hanno fatto diverse proposte, hanno lavorato anche bene, seppur insomma sbagliando qualche volta, però in questo momento è un tema spinoso su cui cercano di tenersi alla larga, e questo è il problema che noi stiamo pagando adesso, di un'Europa che è molto concentrata su altri problemi, a partire dal discorso economico ovviamente, e molto meno, e si sente molto lontana da quello che è il vissuto mediterraneo e soprattutto da quello che è la drammatica responsabilità che l'Italia in questo momento ha sulle sue spalle. Diceva prima il collega dalla Zefiro, cercheremo anche di capire quanto queste persone sappiano che adesso ci sono navi che pattugliano il mare, e quindi si rischia un po' meno. Di certo, ci diceva, forse lo sanno gli scafisti, e quindi anche i nostri ascoltatori ci chiedono, con Mare Nostrum arriverà sempre più gente? Ma io credo che con Mare Nostrum o senza Mare Nostrum le persone arriveranno. Se hanno rischiato prima, maggior ragione rischieranno adesso, che sanno che bene o male ci sarà qualche nave militare a salvarli. E cioè, quando si fanno questi viaggi, io insomma, nel mio piccolo ne ho parlato con diverse decine di loro, e sono persone che rischiavano la vita tutti i giorni andando a scuola, andando a cercare un lavoro a Mogadiscio, o rischiando la galera un giorno sì, un giorno no, perché appunto come in Eritrea o in Siria. Quindi il fatto di fare l'ultimo tratto, rischiare la vita sì, ma comunque in un contesto tra virgolette di pace, è molto meno rischioso. È chiaro che per noi poi magari, cioè diciamo, dalla nostra prospettiva fare un viaggio del genere è una follia, perché si rischia la vita. Per chi già la vita la rischia, un po' meno. Sì, ma poi ovvio, quando arrivano poi molte volte sulle nostre coste, dicono io un viaggio del genere non lo rifarei mai, perché effettivamente si rendono conto anche la paura che allora è stata. Però intanto sono pronti a rischiare, perché vengono da condizioni molto peggiori. Alessandro da Milano, che ne pensa? Sì, buongiorno. Ma io penso che questa operazione Mare Nostrum, di cui nessuno dice peraltro quanto ci viene a costare, sia un qualcosa che favorisce enormemente questi immigrati, perché è una cosa da ragazzi, da bambini, quando sono in difficoltà col satellitare chiamano e andiamo là con le navi a salvarli. Il problema è esattamente il contrario: le navi militari dovrebbero servire a riportarli da dove partono. Inoltre, aggiungo, bisogna fare un'informazione più seria presso questi paesi, perché io ho parlato con questi clandestini, hanno un'immagine falsata dell'Italia, completamente falsata. Loro pensano di venire qui, trovare facilmente lavoro, trovare ricchezza eccetera eccetera. Bisogna fare anche questa opera di informazione presso questi paesi. Chi sanno cosa trovano quando arrivano da noi? Ma da noi sì, ma sanno anche cosa troveranno in Svezia o in Germania o in altri paesi dove ovviamente le condizioni sono per adesso meglio di quelle italiane. Quindi loro vengono in Italia pensando di utilizzarlo come passaggio verso i loro parenti, verso i loro familiari che vivono oggi soprattutto in paesi scandinavi, in Germania o nel Regno Unito. Quindi sanno perfettamente che l'Italia non è in grado di garantire un'accoglienza, diciamo, come in altri paesi, sanno che le condizioni anche dell'Italia non sono come quelle di altri paesi, quindi vengono in Italia per passare e andare altrove. E un dato di fatto è, ce lo diceva il comandante della Zeffiro, che anche in questo inizio anno questo Mediterraneo è quanto mai affollato e quindi il problema dovremo in qualche modo porcelo. Allora, grazie a Khalid Chaouki, deputato del PD, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Chiudiamo, siamo in chiusura, 9:32 minuti. Allora, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. E vi ricordo, edizione delle feste in qualche modo di 24 mattino, anche lunedì prossimo.